Vendo tutto di Matteo Caccia. La racchetta da tennis, il trapano, il computer e il cellulare, la videocamera, la fotocamera, il divano, il tappeto, il forno a microonde, la scrivania, la bicicletta e il set di valigie. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo la racchetta da tennis. E dire che oggi io non volevo vendere la racchetta da tennis. Cioè, fino a stamattina non era prevista. Oggi era prevista un'altra cosa, che non, tipo le catene da neve mi pare fossero previste in vendita oggi. Però poi stamattina è successa una cosa. Buongiorno a tutti, innanzitutto sono le 16.07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. Questa mattina facevo colazione nel bar sotto casa mia, come capita a tutti, insomma, come capita a chi fa colazione fuori, chiaramente. Se fai colazione in casa non ti capita. A me piace fare colazione fuori anche per questo, perché incontro la gente. E mentre facevo colazione c'era una coppia di signori. Questa mattina avranno avuto 65-70 anni, marito e moglie, immagino, che erano in tuta, erano in tenuta da jogging e parlavano del fatto che dovevano andare a correre. E a un certo punto lui le ha detto: senti, vabbè, dai, tanto oggi corriamo solo 30 minuti. E lei gli ha risposto, ma serena, e senza alcuna alcun livore, no, serena, ha detto: guarda, corriamo quanto vuoi, tanto io corro giusto perché vuoi tu. Questa cosa, come sempre succede, mi ha fatto pensare chiaramente ai casi miei, cioè a cosa succede a noi quando ci troviamo in quella situazione. E guarda caso mi è venuta in mente chiaramente lei, ormai la conoscete, la mia ex fidanzata. A proposito di sport, fondamentalmente io ho sempre fatto gli sport da solo. Avete presente quando si è in coppia, no? E si fanno le cose in coppia, cioè si va al supermercato, si va in vacanza, si fa l'amore, tutte quelle cose lì. Di solito capita che magari a uno piaccia fare uno sport e allora l'altro lo faccia con lui. Ecco, a me non è mai successo. E quindi, visto che oggi ho deciso che parlavo di sport, parlando anche di lei, ho deciso che vendo la racchetta da tennis. Il tennis è stato uno degli sport che io ho fatto da solo, perché lei non aveva voglia di farlo. Però oggi io vorrei essere confortato. Ve lo chiedo proprio dal profondo del cuore. Dopo la scena di questa mattina, io vorrei che voi adesso mi chiamaste e mi diceste: guarda, io faccio lo sci, non me ne frega niente, ma a mio marito piace e lo faccio per lui. Oppure, guarda, a mia moglie piace andare in barcavela, a me non solo non piace la barcavela, ma pure sto male, vomito ogni volta che salgo, però lo faccio per lei. 800240024, mi chiamate e datemi questo conforto, altrimenti 349-238-6666 per mandarmi degli sms. Ripeto, 800240024. Si parla della mia racchetta da tennis, però, prima, La racchetta di la racchetta da tennis è un oggetto comunque che ha una sua bellezza. Vi assicuro che questo non sto facendo il venditore, però è un bellissimo oggetto. Se volete vederla, radio24.it, e da lì andate su eBay, potete comprarla. Invece la sua storia è pronta per essere raccontata. La racchetta da tennis. Racchetta Wilson serie Europa Pro, anno di fabbricazione 2007, colore bianco, nero e rosso. Tensione corde a 27 kg, lunghezza 69 cm, larghezza massima 26 cm, peso 320 g. Piatto corde come nuovo con logo Wilson intatto, fornita di custodia termica, usata 10 volte pari al nuovo. Ottima per principianti o come racchetta di riserva. Valore commerciale 35 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Se penso a quanti corsi ho fatto nella mia vita, quasi non ci credo. Non credo al fatto che non sia riuscito ad eccellere manco in una delle cose per cui ho studiato e mi sono applicato. Ho letto da qualche parte che esiste una teoria secondo cui ciascuno di noi è una specie di campione, cioè un fenomeno, in almeno una delle attività umane. Ecco, ora il problema sta prima nel capire quale, e poi sperare che quell'attività abbia un qualche valore agli occhi dell'umanità, ovviamente, perché se scopro di essere un campione in uno sport qualunque, ovviamente sarò acclamato dalla gente, no? Probabilmente sarò strapagato per fare una cosa che mi tiene in forma e mi diverte. Ma se scopro di essere un campione nello stirare le camicie, ad esempio, sì, farò di sicuro contenta mia madre, ma non sarà certo osannato per quello, giusto? Ecco, forse è meglio che accada come accade nel mio caso, che ancora non ho scoperto qual è l'attività in cui primeggio. E quindi ho ancora speranza di trovarla, no? Prima o poi, in un futuro. Di sicuro c'è che contando i corsi che ho fatto posso sicuramente escludere di essere un campione di karate, sci, cucina mediterranea, calcio, teatro, vela, equitazione, inglese, decoupage e tennis. Ho citato per ultimo il tennis non a caso, visto che è stato il primo corso a cui i miei genitori mi hanno iscritto. Allora, le lezioni si tenevano presso la sede del dopolavoro dell'Enel di Novara. Anche se nessuno della mia famiglia ci lavorava, non so come, però erano riusciti ad infilarmici. I miei compagni di corso erano tutti figli di dipendenti dell'Enel, ovviamente, e io, per non sembrare fuori luogo, mi ero inventato una parentela con il signor Enel. Poi, solo anni dopo, ho scoperto che Enel è un acronimo che sta per Ente Nazionale Energia Elettrica e non è un cognome. Il nostro maestro al corso si chiamava Marco Deò e non era un granché come insegnante, visto che praticamente passava il tempo a bordo campo con una caraffa di tè caldo in mano, raccontandoci delle sue imprese sessuali e urlando ogni tanto cose tipo «Piega ste ginocchia!» oppure «Cambia impugnatura sul rovescio!» È inutile dire ovviamente che non imparai nulla da quel corso, come è successo per quasi tutti i corsi che ho frequentato da bambino. Perché il fatto è che non credo di avere mai compreso il perché della teoria delle cose e poi di conseguenza come questa si applicava alla pratica, al gesto tecnico vero e proprio. Ho sempre fatto le cose un po' per istinto e questo conferma la mia idea di prima, quella per cui non sono un campione in nulla, perché per un campione è tutta questione di istinto, il resto è solo allenamento. Vabbè, nonostante tutto però, dopo un paio d'anni di lezioni, qualcosa l'avevo imparato e nell'estate del 1993 ho partecipato al mio primo torneo di tennis. Era il torneo di Ferragosto del Residence degli Oleandri, dove eravamo in vacanza con i miei, all'Isola d'Elba. La partita la vinsi agevolmente contro un avvocato di Modena, che giocava in sandali. La seconda però mi trovai davanti a un ragazzino di 5 anni più giovane di me, in un perfetto completino bianco, che mi diede decisamente una bella ripassata. 6-0, 6-0 e a casa. Da quel giorno smisi di frequentare il corso di Marco Deò e cominciai a giocare a pallone. Però la storia del pallone ve la racconto un'altra volta. Vanessa used to say when I grew up I would learn to work and drive home every night. A big estate with a pretty wife, but I don't mind if I love it all the time. Something I learned long ago, if you fake it, it starts to show. The sun is getting bright and it creeps in through my shuttered blinds, and I wish you could hear me now. I left you long ago. Nel periodo in cui da ragazzo giocavo a tennis, la persona che sentite parlare era il mio idolo. Il mio istruttore mi diceva: guarda lui gioca il tennis del futuro. Lui si chiama André Agassi, è stato numero uno al mondo per oltre 2 anni e ha vinto 8 tornei del Grande Slam, di cui 4 su diverse superfici, e scusatemi se è poco. Usava il rovescio a 2 mani. E la cosa innovativa che faceva era colpire la pallina dopo il rimbalzo, ma nella sua fase ascendente, in modo che quello che ne usciva era un colpo velocissimo e spiazzante. Ho smesso di interessarmi al tennis più o meno quando lui è uscito di scena, la prima volta nel 1995. Recentemente ha scritto un libro autobiografico e nell'intervista che sentivamo prima, lui racconta quanto abbia odiato il tennis, perché il padre lo obbligava a giocare 8 ore al giorno ininterrottamente. Non so come mi sia tornata voglia di giocare a tennis proprio sentendo quell'intervista. Non so perché. È che vedere Agassi, un po' ingrassato, che racconta della sua depressione, dell'odio che aveva per lo sport in cui era il numero uno, non so, mi ha fatto tornare la voglia di riprovarci. E in più sentivo il bisogno di non fare come Giulia. Mi spiego. Giulia apparteneva a quella categoria di persone che non ha mai fatto sport nella sua vita. Avete presente quelli che sono in perfetta forma e ti dicono che il loro segreto è non avere mai alzato un dito? Non un giorno in palestra, non 20 minuti di corsa, niente. Ecco, lei era così. E per quanto l'amassi, io non volevo diventare come lei. Ecco, forse questo avrebbe dovuto farmi riflettere. Tant'è, alla fine, un po' per merito di Agassi e un po' per colpa di Giulia, ho cercato un corso di tennis. Mi sono comprato la racchetta nuova, quella che vendo oggi, e ho cominciato le lezioni. Le lezioni non sono ancora finite e quindi mi toccherà vendere anche quelle, però più avanti. Oggi tocca la racchetta. Non è una super racchetta, però è ottima per chi ha le prime armi. Il manico non è troppo lungo, in modo da gestire meglio la direzione della palla. La struttura è rigida, ma non troppo. Mi piace giocare a tennis. Ma soprattutto mi piace vedere i miglioramenti. Sentire di volta in volta che si stanno facendo dei passi in avanti e averne consapevolezza. La cosa che purtroppo mi rovina, però, è lo spirito agonistico. È strano, perché in genere sono una persona tranquilla, piuttosto pacata, che bene o male sa gestire le proprie emozioni. Eppure, appena comincio un'attività che prevede una competizione, è la fine. Perdo ogni lucidità. Quando gioco con gli amici, mi dimentico che siano amici e mi sembrano dei mostri. Dico cose irripetibili contro di me, contro di loro e contro la mia racchetta, che ovviamente cerco di trasformare nell'unica colpevole dei miei errori. Uso tattiche becere per distrarli, tipo perdo tempo se loro stanno giocando bene, mi allaccio le scarpe, faccio cadere le palle da tennis. E non basta nemmeno ricordarmi gli insegnamenti di Flavio, il mio maestro, che a proposito degli scambi lunghi mi ripete sempre: ogni palla che ti arriva è la prima palla che giochi. Vi risparmierò la filosofia dello sport come metafora della vita, primo perché è vecchia, e secondo perché alla fine, a ben vedere, ogni cosa può essere presa come metafora della vita, pure il lavoro, pure l'amore, pure i programmi della De Filippi. Questa racchetta invece non è metafora altro che di se stessa. Ha poco più di un anno di vita, l'ho usata in totale 10 volte e come tutto è arrivato il momento di liberarmene. Quindi, nonostante tutto, nonostante i corsi del Nelen, nonostante ogni palla che ti arriva sia la prima palla e nonostante la metafora della vita, questa racchetta da tennis è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 35 euro, l'asta però parte a 99 centesimi. Se qualcuno a casa però ha mai fatto uno sport per amore, sono qui, 800-024-0024. Sono le 16.19, questa è Radio 24. Prima di passare a quello di cui stavo parlando oggi, rispondo a Cesare, che mi ha scritto al 349-238-666. Non lo so, Cesare, non lo so dov'è nel sito nuovo di Radio 24 sono le webcam. Magari chiedo e te lo faccio dire. Poi intanto, altra roba di servizio, Buddy scrive: Matteo, la base che accompagna la lista dei tuoi desideri, che sentiamo dopo, è una canzone dei Phoenix? Sì, la risposta è sì. E poi ancora, la mia compagna odia fare sport. Ho provato a coinvolgerla, a correre insieme, ma non c'è niente da fare. Meglio, perché così si fanno incontri interessanti. Fabio, spero che la tua compagna in questo momento non sia all'ascolto di Radio 24. 800-24-0024, Federico da Roma. Pronto, Federico? Ciao e buonasera a tutti i radioascoltatori. Però, buonasera. Qua c'è sempre la questione che buonasera è dopo le 16 del pomeriggio e buongiorno è prima? Oppure... Io sapevo alla mezza. A mezzogiorno addirittura? Sì. Ok, perfetto. Quindi ricomincio. Federico, buonasera, benvenuto a Vendo Tutto. tu chi è che ha paura di fare qualcosa e ha imparato e fa uno sport per amore dell'altro? Tu o la tua compagna? La mia compagna mi ha sorpreso, perché credo veramente per un gesto d'amore. Io sono un appassionato di sci, E lei invece, diciamo, come attività ha sempre fatto la ballerina di danza classica. Quindi addirittura credo che sia vietato per i ballerini, no? Da contratto, esatto. Non possono fare sport pericolosi, giusto? Esatto. Quando ha smesso però l'attività, ha provato finalmente questi sci, senza che io però sinceramente facessi particolari pressioni, proprio per amore, perché sapeva che poi durante l'anno comunque mi portava via giorni, la settimana bianca, i weekend con gli amici, e quindi per rimanere insieme e provare comunque una cosa nuova per lei, che prima lei era molto pericolosa, si è lanciata. Ma lei, Federico, ha proprio paura? Beh, all'inizio era terrorizzata. Ah, ok. Quindi le tipiche scene a spazzaneve con le pietose, per cui pianti in cima alla discesa? C'è stato qualche pianto, però con grande coraggio, devo dire, perché poi avvicinarsi allo sci quando, insomma, si è già grandicelli. Chiaro, più difficile. Federico, l'ultima cosa, il vostro rapporto è migliorato grazie a questo suo passo avanti? Beh, non soltanto grazie a questo, ma sicuramente è un elemento importante, perché si vive insieme un po' di più. Però volevo specificare una cosa, se posso. Dimmi. Per me è stato bellissimo, ho gradito tanto, però adesso questa cosa continua soltanto perché poi lei si è appassionata. Ah, ovvio. Okay. Quindi ci ha messo la passione, ci ha messo del suo. Grazie Federico, buona giornata. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Andiamo a Napoli da Ferdinando. Pronto Ferdinando? Buonasera Matteo, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, come stai? Bene, un po' raffreddato, mi scuso per la voce, ma... Guarda, non c'è alcun... anzi, è una bellissima voce comunque, Ferdinando. Grazie, grazie mille. Di che sport parliamo? Io ho avuto l'esperienza opposta dell'amico di Roma, che ascoltavamo precedentemente, uh-huh. Perché sono stato io per amore a imparare a sciare. Ah. E ricordo all'incirca 7-8 anni fa, quando praticamente ho messo gli sci ai piedi per la prima volta all'età di 31-32 anni. E niente, le scene erano non comiche ma tragiche, peggio, cioè tragicomiche, perché... Pronto? No. Di scene, no? Sì. Io non potevo piangere perché maschietto... Perché non si fa, piangere. giustamente. Ma giuro che dentro di me imprecavo, perché era la scena è stata che dopo appena 2 ore di lezione con il maestro... Uh-huh. Quella che oggi è mia moglie mi ha portato su a 2000 metri. Certo, perché la teoria è ti svezziamo subito, sì, così poi vai incontro subito, al tuo destino. Ti buttiamo in pista. Benissimo. E quindi, insomma, vabbè. Il rapporto come va adesso, Ferdinando? No, splendido. Direi, assolutamente. Io scio sempre per amore, perché come dico io non scio ma scendo. Ok, quindi il tuo è ufficialmente oggi... uno sport per amore. Quindi è ufficialmente uno sport per amore. Dico di più, si è esteso dalla coppia ai figli, perché i figli stanno imparando a sciare, sono piccoli. Però lì è più facile, no? Sei piccolo, ti butti. È più facile, ovvio. Ma adesso sciamo in quattro, io sempre per amore, da quello. Beh, bravo. Voglio dire, Ferdinando, poi moglie. Ti ringrazio molto, sentiamo un altro ascoltatore. Grazie, ciao, buona giornata. Complimenti per la trasmissione. Grazie mille, ciao. Silvia, pronto? Sì, buongiorno. Ciao Silvia, buongiorno. Mi è venuto da ridere quando ho sentito che cercavo qualcuno che fa sport per amore, perché io sono un'atleta mancata. Uh-huh. E quando sentivo raccontare la racchetta mi veniva da ridere, perché invece al contrario di lei, io ho sempre voluto fare sport. Uh-huh. E con mia madre, siccome siamo in tanti, ha sempre fatto fatica a portarci a fare tutto quello che volevamo. E io però quando faccio una cosa la faccio veramente, faccio solo le gare, qualsiasi sport. Ho cominciato a giocare a golf, dopo un mese facevo la gara. Uh-huh. E per me lo sport è vita, perché solo con lo sport che hai delle relazioni anche con gli altri, e i miei figli sono come me, e ogni sport di me, io ne ho tre, per ogni figlio faccio lo sport insieme a lui ogni cioè, volta. Cioè tipo, fammi gli esempi degli sport che fai con i tuoi tre figli. Mia figlia ha fatto gare di sci per anni e io ho cominciato a fare gare di sci con lei. Uh-huh. Ho un'altra che gioca a golf, ho sempre fatto le gare di golf con lei, adesso ho il piccolo che monta a cavallo e ho ripreso a montare a cavallo dopo 20 anni. Perfetto, se ne fai un altro ti trovi anche un altro sport, Silvia. Esatto. Grazie okay, mille, grazie. Ciao, buona giornata. Sebastiano dalla provincia di Roma mi pare, pronto? Buongiorno, buonasera Sebastiano, in base alle regole. Oggi è una giornata di sole e di vento, io purtroppo sono in macchina. Altrimenti cosa avresti fatto? stare in vela se avessi potuto. Ah, oh, si è parlato di montagna, parliamo di mare. Chi è che ha obbligato chi ad andare in vela, tu o la moglie? No, io sono velista da sempre e quando mi feci fidanzato con mia moglie 40 anni fa, mm-hmm, mia moglie venne in barca con me. Ah. E poi dopo il parto smise di venire. Ah, quindi di fatto adesso tu vai con chi? Con i figli o per i fatti tuoi? Vado con gli amici, vado con i figli, vado in giro sempre. E te l'ha fatta appenare dopo questa cosa? Dopo 40 anni quest'anno è tornata, dopo il matrimonio di mia figlia, è tornata in vela con me. Ah, benissimo. E te l'ha mai fatta pesare, Sebastiano? Ti sento, sento. Niente, allora guarda, va bene così. Rimango con tua moglie che è tornata dopo 40 anni. Ciao, buona giornata. Io spero Ciao, grazie mille. Io spero che questo messaggio sia arrivato a chi di dovere. Insomma, ma torniamo diciamo ai soldi con cui che sto diciamo infilando nel fondo dei miei desideri. Perché come al solito molti mi chiedono cosa ne farò di questi soldi. Ecco che cosa ne farò di quei soldi. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Sono le 16:28 minuti, questa è Radio 24. Io ringrazio chi mi ha scritto anche. Ma non ti ha scritto la tua fidanzata per insultarti? La risposta è no. Grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Domani si continua la vendita, perché domani è la volta delle catene da neve. Sono un paio di catene comprate e mai usate. So che l'ho già detto più volte, ma è la verità, perché, come lo sapete, lo spazzaneve arriva sempre quando non serve più. Quella di oggi invece era la storia della mia racchetta da tennis. Per vederla e comprarla, radio24.it, dove tra l'altro potete sentire in podcast questa e tutte le altre trasmissioni. E mi raccomando, liberatevi delle vostre cose, fate come me, perché alla fine una racchetta da tennis è solo una racchetta da tennis. Love, love, love.